Se yo potesse, io mi innamorerei, mi abbandonassi, chissà cosa farei. Se fossi ricco, sai quanti soldi spenderei per te, ma non lo so, e quindi restano con me. Se tu sparissi, dopo un po' ti cercherei. Se invece tu tornassi, presto io mi stancherei. Starei per ore a guardarti parlare, perché in auricolare ascolto i miei MP3. Se tu insistessi ancora, io tergiverserei. Se ti puntassi a fondo, non so cosa direi. Se mi chiedessi e poi mi sposi, io ti risponderei di sì, per poi cambiare idea o in un minuto o giù di lì. Se io potessi, in fondo, mi innamorerei. Se mi sforzassi un po' di più, forse riuscirei. Se fosse ancora primavera, so che impazzirei per te. Ma grazie al cielo è ancora inverno, che se so che non è eterno, che senso a dirti innamorato, che tanto t'amo già.